fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua in diretta sabato sera in compagnia di queste ragazze che vengono da tutte le parti d'Italia, giusto ragazze? Più o meno? Più o meno, sì, diciamo Italia. Dall'Italia in generale, giusto? Tranne una che viene da più lontano, che è la sposa. Da dove vieni? Dall'Australia. Oh là, dall'Australia, ragazze. Come ti chiami? Lavinia. La Lavinia viene dall'Australia, perfetto. Poi, qual è sparita? Ah no, eccola. Mi sono persa. Ecco, come ti chiami? Benedetta. Da dove vieni? Da Pescara. Pescara, poi? Provi a Roma? No, è bello, bello capire da dove, perché vi siete radunate qui al convento. Esatto. Bello, no? Io sono di Venezia. Allora, quella di Venezia come si chiama? Susanna. Susanna da Venezia, poi te? Margherita Milano? Io Martina da Milano. Martina da Milano. E come fate a conoscervi? Cioè siete... Vabbè, una è mia sorella. Qual è la sorella? Quella di Venezia è mia sorella. Ah, ok. E poi le altre tre sono le mie compagne di... vita. Di vita. Di vita da una vita, praticamente. Di vita da una vita. Ce n'è una la più lontana di vita, diciamo, da quant'è che ci conosciamo? Da? 15 anni. Da, non lo so, 15 anni. Ah, siete catechiste voi? No? Più o meno. Dall'elementare. Ah, dall'elementare. Questo ragazzo si è innamorato di voi così al volo. Ecco, ciao, ecco. Avete già dei fan, peccato che da fuori non si riesce a vedere perché siamo in radio. Però sembra di essere in un acquario, giusto? Vero, eh? Ogni tanto arrivano tipo dei pesci strani che si attaccano al vetro. Alcuni a volte si appiccicano proprio con le labbra. Sì. Sì, infatti sono i pesci pulitori che ci puliscono. Sono delle strane specie. In Australia avrei visto tante specie di animali. Oddio, anche molto pericolosi. Molto pericolosi, anche qua commento ne abbiamo anche parecchi, ecco, pericolosissimi. hai visto che roba? Eh? Che bello. Allora, amiche, quando ha deciso di partire per l'Australia ci siete rimaste malissimo? Super male. Tristi per voi, eh? Ma l'avete sentita la sua storia? Io prima me la raccontava fuori onda, è incredibile. Che lei voleva andare... Ce la racconti proprio un riassunto velocissimo? Un riassunto? Proprio... velocissimo, ok. Allora, io ero in Australia solo in vacanza a trovare mia sorella. Il mio sogno era di andare negli Stati Uniti, in realtà, ma è stato dall'Australia. E poi niente, ho conosciuto il mio futuro marito, però non è successo niente. Poi lui mi è venuto a trovare a sorpresa, a sorpresa, Non lo sapevo, per 2 mesi. Dopodiché niente, è andata poi da lì la storia. E poi io sono andata a ritrovarlo in Australia, lui è ritornato. E poi io ero a fare l'università, appena mi sono laureata mi sono trasferita. Ma la cosa incredibile è che quando andava alle superiori lei voleva andare in Australia a fare tipo l'Erasmus. Esatto, quelle robe lì. Era l'unico posto rimasto, Martina testimone perché lo voleva fare anche lei con me. L'unico posto era India o Australia. Io ho detto a mia mamma: bene, io vado in Australia. Mia mamma mi fa: no, tu non vai in Australia, è troppo lontana, non ci andrai mai. Non ci andrai mai. Esatto. Esatto. Ma dire mai, questo è proprio l'esempio palese. Ma anche solo te, cosa fai a venire te che sei troppo vicina. Lo so, però in Australia ci vai quando sei giovane e non hai niente da perdere. Quindi adesso io ho tante cose. Questa... c'è da perdere questa? La mia vita è là. Ma è giovanissima anche lei, cioè sei giovanissima anche tu. Ti ringrazio, però ti posso garantire che non sono giovane come mia sorella. È la sorella maggiore questa? È la sorella maggiore. Maggiorissima. Ah, la maggiore. Poi ce n'è una di mezzo. C'è una media. E poi c'è la piccola che sarebbe lei. C'è anche la sorella maggiorette, no, quella non c'entra niente. Non ce l'abbiamo quella, no. Che storia, quindi 2 su 3, Australia. Voi fate 4 tranquille in Italia. Per ora siamo qua. Ci hanno provato, ma niente. Mi devono venire a trovare. Ah, esatto. Mi devono venire a trovare. Dovete... Ho capito, con 2 anni che ci stai con calma. 3, cara. Eh sì, perché sapete che lei vive nella fattoria, nel ranch, con i canguri, tutta la storia. Eh sì, perché non hanno sentito l'intervista loro, eh. È vero. Cioè... La sorpresa del lunedì. Abbiamo 3 canguri, ecco qua fuori. Specie di animali. Guarda, hai visto che come saltellano? Si sono azionati, ecco, visto che. Ecco, Chissà, in Australia fanno così? Anche in Australia? Fanno tutti così, ah, col marsupiello. Ah, tutti, ecco, tutti che si propongono col marsupio, tra l'altro. Questi ragazzi, queste... che storie. Allora, vi è piaciuto il convento? Sì, molto bello. Un posto magico, eh? Tutto pieno di energia, carico. Bello, no? Si cena, si balla, si fa festa. Bello. Ve lo aspettavate quando siete arrivate, No. Io non sapevo nemmeno dove stavo andando. Ah, non sapevi niente? Proprio no. La... Ma chi ha organizzato? Chi ha organizzato loro, tutto? A loro. E voi come avete fatto a scoprirlo? Chi io? Google. Allora. Ah, con Google? Google, sì. Con Google sei riuscita... Con il nostro compagno per questa giornata. Sì, in realtà il convento in particolare l'ho conosciuto tramite Bertoldi Boats, con cui abbiamo fatto un giro in barca oggi pomeriggio. E nel loro deplian, diciamo, era poi la serata al convento e da lì poi... Ah, bene, allora ve l'hanno detto. E raccomanderei Massimo. Massimo, sì, se vi capita di andare. È il mio. È il Massimo. Massimo. Quella ragazza ci ha spento la luce per fare l'atmosfera con... Ecco, aveva il 50% e l'ha sbagliato. Ok, quindi siete andate in barca oggi sul lago di Garda. Bello, anche quello non te lo aspettavi? No, ma perché non sono mai stata cioè, non sono mai stata uscita alla stazione di Desenzano. Ho detto, ma dove sono capitata? Dov'è Desenzano? Addirittura, non sapevate? Addirittura, no. Cioè, a Pescara non si conosce... No, sì, a Pescara... Vabbè, dai, sì. Sirmione sì, no. Si sa, però, cioè, sono scesa a Desenzano. No, dov'è che sono scesa? A Desenzano, perfetto, non si ricorda neanche più dove è scesa. Perfetto. Non sapevo più dove fossi, in che regione d'Italia fossi in più. Ma ti hanno bendato per tutto il viaggio? No? No, sono tormentata a mezzo viaggio. Ah. Ok, quindi giro in barca più serata al convento, questo era il programma? Esatto. C'è anche domani? Non so, no? C'è il ritorno, ok, quindi lasciamo tutto nella suspense più totale. Sei tesa? La mia? No? Relax, tranquilla? La sorella di Venezia si sta addormentando nel frattempo? No, io sono qua che l'ascolto volentieri. Ah, l'ascolti volentieri? La settimana precisa a quest'ora sarà già sposata. Ah, perché ti sposi sabato prossimo? Quindi tra... Tra una settimana, tra dove una ti sposi? Settimana. A Pescara? A Pescara. È giusto, nella... moglie. È andata, moglie. Quindi l'australiano viene a sposarsi a Pescara, in Italia, a Pescara, che ovviamente. Storia. Ma vengono anche i parenti dall'Australia? Sì, ci vengono i nonni dalla Nuova Zelanda. Addirittura? Dalla Nuova Zelanda, 80 anni, 24 ore di volo. No, pazzesco. Ossa, sì, certo. Più o meno, per giù. Vabbè, ne aggiungi 6. Pazzesco, dalla... bellissimo. Allora, ragazze, grandissimo, pensateci quando siete tra una settimana lì a Pescara. Dai, un saluto al convento, ce lo fate? Certo. Ve lo ricordate? Certo. Va bene. Brava. Anche di più, ecco, cioè, che ci sta. Intanto vi devo salutare perché i nostri 5 minuti sono passati, sono 8 minuti che stiamo parlando. Wow, non vi siete neanche accorte. Sono volati, quindi vai con i nomi, facciamo l'elenco dei nomi al microfono. Ciao Benedetta. Ciao da Benedetta. Ciao Margherita, che è senza voce. Ciao da Martina. Ciao da Susanna. Ciao da Lavinia. La sposa. La sposa. E ciao da Sandrino. Ciao.